In collegamento telefonico con l'autore e attore Nicola Vicidomini, che sarà a Roma, a Villada, domenica 29 luglio con il suo spettacolo Veni Vicidomini. Nicola, ben trovato. Ciao. Ce lo presenti? Ve lo presento, ma non è venuto, non è venuto. No, no, no. Sei solo tu. Sì, sto solo io, purtroppo per me. Vorrei, no, prima o poi guadagnerò lo sdoppiamento. Nel senso che sto già lavorando per l'Ubiquità. Tu pensa che io alle 15:30 ogni giorno sto contemporaneamente a Barcellona, Parigi e Bari, fino alle 4 del Ma pomeriggio. con impegni vari. Niente. No, no, no, no, niente, niente, sono immobile lì, mi trovo ai bar, ogni tanto alcuni qualche pomeriggio, qualcosa. Sto così come niente fosse. E quindi niente, sul palco, prossimo spettacolo ci sarò io e io. Stiamo lavorando per questo. E Senti, per adesso sto da solo. Ok, per Vicidomini è facile capire, ma per Veni chi è Veni? Sei sempre tu, ma come? Veni è un travestì, un transessuale di Livorno. Ah, ok. La Veni, perché è diminutivo di Venere. Ok. È un transessuale di Livorno, che poi non è un transessuale alla fine, un travestito normalissimo che c'ha pure una parrucca orrenda. Quindi, però anche questo non può venire, quindi sarò da solo. Sì. Senti Nicola, per chi non ti conoscesse, qual è il tuo percorso? Io ho avuto modo di vederti all'interno di una serata sgombro con un tuo pezzo e anch'io non ti conoscevo. Raccontaci un po' qual è il Ho tuo. fatto 2 anni di mediazione della prostituzione, qui mi Sì. hanno beccato, e poi è arrivata Veni, diciamo, e abbiamo un po' ripreso. Poi, insomma, carcerazione Sì. preventiva, cose così. Poi mi sono accoppiato, ho cominciato ad accoppiarmi con gli animali, Sì. ma proprio a livello agonistico. E niente, insomma, al momento sono impegnato a fetare densamente, fetare per, lo dico per gli olandesi, vuol dire puzzare. Il mio impegno è emanare questo tanfo. Credi che abbiano capito gli olandesi in ascolto? Ok. Facciamo poi a gesti. Ah, sì, agenti, loro sì, certo, loro capiscono Sì. assolutamente. Senti Nicola, e questo spettacolo come nasce? Nasce morto Nasce morto. perché insomma, alla fine la nascita è sempre qualcosa di problematico, però no, una cosa, diciamo, racchiude un po' tutto, è una sintesi estrema del lavoro umoristico, della scrittura umoristica e della scrittura di scena degli ultimi 5 anni. Insomma, ci sono cose da spettacoli vecchi, cose da Scapezzo, che è stato campione di sold out in tutta Italia. Sono cose dallo spettacolo futuro intitolato Fauno, che sarà in scena al Teatro Vascello. Un'altra volta al Teatro Vascello, sì, un'altra volta al Teatro Vascello, ad aprile-maggio della prossima stagione. È un one-man show. Ecco, a proposito di One Man Show, come mai allora questo incontro con Sgombro? Perché io ho suoi amici. Sì. Amici sono bravi, mi hanno chiamato a esserci, a partecipare, ci vado. Piace quella formula? Molto. Poi c'è Ivan Tatarico che è bravissimo, Luca Ruoc, sono fantastici. Mi piace molto ed è l'unico, credo sia l'unica fucina, ma manco fucina, perché poi ognuno si fucina da solo. Sì. Bisognerebbe fucilarsi più che fucinarsi, però infatti adesso sto aspettando il periodo di esecuzione, che arriva domenica chiaramente. No, è una bella dimensione. Io poi sai, sono ospite là, per cui l'ospite dopo 3 giorni puzza. Eh sì, feta. Aspetta, io fedo pure al primo, Sì, quindi lasci immaginare, insomma, feta. come stiamo messi. No, più che altro Roma mancava uno spazio così interessante e stimolante, dove c'è un confronto vero, dove non ci si preoccupa, cioè, ma secondo te fa ridere? No, se non fa ridere è meglio. devono crepare questi disgraziati. Senti Nicola, tornando allo spettacolo, come mai questo titolo omaggio al latino? Ma perché il mio cognome è così. No, ma a parte il fatto che il titolo non è mio, lo voglio dire. Ah, ecco. L'ho già detto. Mm-hmm. Il titolo è di Antonio Rezza, non è mio. Ok, ok. che mi ha detto, ma caspita, ma sai che dovresti fare? Dovresti fare Veni, Vici Domini, Salti il Vidi. E io ho detto, là per là ho detto, ma poi mi è tornato in testa qualche giorno dopo, ho chiamato, ho detto guarda che ho il titolo, perché io cercavo un titolo per un The Best Of, e poi è questo qua, e li ho provati tutti, pesce, cose, niente, no, funzionavano però, e poi ho detto cazzo, Antonio c'ha ragione, l'ho chiamato, ho detto guarda lo spettacolo si chiama così, che t'avevo detto. Senti, hai citato Antonio Rezza, e quali sono stati i tuoi riferimenti comici agli inizi? Agli inizi i miei riferimenti comici sono stati Mario Marenco, Felice Andreasi, Coglia Renato, Enzo Iannacci. Dai, sono questi. Senti, per chi volesse seguirti e saperne di più, in rete c'hai un profilo Facebook, un sito internet? Purtroppo ce l'ho e lo devo pure gestire, peraltro. Uh-huh. Per chi mi volesse seguire, va su Facebook, scrive Veni. No, scusa, quella è un'altra cosa. Un'altra. Il travestito di cui abbiamo parlato prima, sessuale. No, scrive Nicola Vici Domini. Il mio nome e cognome, poi fin quando io poi sai, io poi cambio il nome all'anagrafe una volta ogni, sì, ogni giorni, per cui poi due giorni fa ero Massimo Restagni ed ero iscritto all'anagrafe di Torino. Oggi sono Nicola Vicidomi, dopodomani chissà sarò Enrico Lomaggio, sì, sono iscritto all'anagrafe di Frascati. Sì. Quindi, se siete ancora in tempo, iscrivetevi alla pagina Nicola Vicidomi, altrimenti per voi io sarò finita. Sì. Tra l'altro è una pagina che gestisci da Barcellona. E contemporaneamente, sì, sì. Dalle 15 alle 15:30, alle 16 più o meno 16:30, appaio in piena ubiquità a Barcellona, Parigi, Bari. Ok. O dalle 16:30, poi c'è, vabbè, chiaramente sono 5 minuti di pausa, dalle 16:35 alle ore 18 sono contemporaneamente a Düsseldorf, Nocera Inferiore e Tokyo. Ok. Poi dalle 18:03 alle 19:35, non so, mi hanno dato questa fascia orario, sì, 5, sì, minuti fuori. Non so perché, sono a Via Nemea a Roma, Via Nemea 21, poi sono a Monaco in Baviera e sono a casa di Proia Enzo, un funzionario della Regione Lazio. Ok. Che fa stato indipendente, perché la casa di Proia Enzo fa stato indipendente. Peccato solo che da Innsbruck non possono seguirti, insomma, perché non ci sei mai. Ci stiamo attrezzando, Okay. Io ho telefonata con Satana proprio oggi. Ok. Che cercherà di potenziare, anzi, vorrebbe vendere una delle nuove frequenze, però devo capire se c'è ancora un po' d'anima per comprarle. Bene. Allora, ricordiamo l'appuntamento con lo spettacolo Veni, Vici, Domini di e con Nicola Vici Domini a Roma, Villa Ada, domenica 29 luglio. Nicola, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Un abbraccio a te, ciao. Ciao.